un'avventura che dura da 18 anni, 19 per quanto concerne il passamano per San Luca, che apre la manifestazione della Festa della Storia, che si svolgerà il 16 di ottobre. Il titolo che è stato dato quest'anno alla Festa della Storia è, direi, una necessità di riflessione significativa sulla storia, sul bisogno che abbiamo di storia, se pensiamo anche ai recentissimi fatti. La storia infatti di quest'anno si intitola Una storia da salvare. Pertanto, se noi consideriamo che la storia è la presenza dell'uomo su questa terra, non è detto che, se non rispondiamo in maniera pressante ai problemi dell'attualità, non ci sia un futuro per l'umanità. E al tempo stesso penso a un'intervista che qualche anno fa Jacques Le Goff ci rilasciò a proposito della storia, parlando della storia come il faro dell'umanità. Se dobbiamo pensare alla situazione attuale, forse quel faro, quella luce che illumina il nostro presente, ci fa vedere le visioni del futuro, forse è spento. Quindi da un lato abbiamo, credo, il dovere tutti noi di salvarla questa storia, di ridare luce al nostro presente, al nostro futuro, cercando appunto di sensibilizzare sempre di più, ma di ricostruire la storia come deve essere ricostruita, attraverso l'attendibilità, attraverso la ricerca, attraverso le fonti. Abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo fatto un'edizione online, interamente online, per dare continuità alla Festa della Storia. E abbiamo avuto un'ottima rispondenza, però abbiamo anche visto l'anno scorso quanto è facile che la storia sia mistificata, sia piegata, sia usata, fake news, e quanto invece è importante conoscere quella struttura che permette di avvicinarsi al nostro passato, di ricostruirla nella sua attendibilità, perché questo permette chiaramente la libertà di scegliere, la libertà di esprimere un punto di vista, ma questa grandissima connessione che c'è tra la conoscenza e la qualità della conoscenza e l'assunzione di responsabilità. Quest'anno, riprendendo appunto Le Goff, il significato di quel faro dell'umanità, ancor di più abbiamo sottolineato quel premio internazionale dedicato a lui, il Portico d'Oro, che quest'anno, il 18 di ottobre, verrà conferito al giornalista Andrea Purgatori, che noi tutti conosciamo anche per colui che, insomma, ha incominciato a togliere tasselli di quel muro di gomma, se noi pensiamo a Ustica, ma anche alla sua capacità ovviamente di saper narrare scientificamente in maniera corretta, perché questa è poi la finalità del premio, la storia. Non a caso lui farà una lectio magistrale proprio sul rapporto storia-memoria e la trasmissione della storia attraverso i mezzi televisivi. E quando sarà questo appuntamento? Questo si svolgerà, questo appuntamento, il 18 di ottobre, lunedì prossimo, in sala dello Stabat Mater alle ore 17. Altro aspetto che abbiamo considerato è il tema dell'Afghanistan. È legato a questo tema, ci sarà una testimonianza importante di chi ha vissuto in prima linea situazioni drammatiche, che ce le porterà come sua testimonianza, che è l'attuale presidentessa di Emergency, Rossella Miccio, che il 12 di novembre, sempre in sala dello Stabat Mater, riceverà il premio Novi Cives Costruttori di Cittadinanza. Questo premio è dedicato poi anche alla memoria di Gino Strada, ma lei entrerà, diciamo, nel vivo della sua esperienza proprio in Afghanistan. Poi ricordavo il passamano per San Luca, ricordavo proprio questo fatto di fare insieme alla collettività l'impresa, una rievocazione storica, ma che dietro a quel gesto c'è poi quello che ci fa sempre sentire di appartenere a quella comunità, e quindi riconoscere in questo gesto anche l'identità del territorio. Piace anche ricordare che c'è un bisogno tantissimo di storia, e c'è anche una risposta a questo bisogno di storia. Un modello come quello della Festa della Storia, che, come sappiamo, ha tante altre, diciamo, esperienze di feste della storia. Quest'anno, peraltro, la prima festa della storia a Saragozza in Spagna, oltre a quelle già consolidate di Siviglia, oltre a quella che, diciamo, è esportata oltreoceano a Buenos Aires, in Argentina. Sono, insomma, testimonianze che credo, insomma, di questa grande comunità che è la Festa della Storia, che, insomma, crede fortemente, credo con passione e responsabilmente, a diffondere conoscenza storica con piacevolezza, ma comunque la necessità del rigore scientifico, che è fondamentale oggi più che mai. Insomma, un programma appassionante, e possiamo dire storia magistre vite, però una storia di qualità. Questo è fondamentale, una storia di qualità, ed è quindi anche nostro dovere attingere da questi grandi luoghi della memoria come gli archivi, di restituire quelle storie, quelle esperienze, quelle lungimiranze che una comunità di uomini e donne ha avuto nel nel passato, penso solo ai portici, patrimonio dell'umanità, penso al significato che ha portato a costruire i portici, ma penso a pagine straordinarie come Liber Paradisus. Ecco, sono esperienze della lungimiranza di chi ci ha preceduto che devono essere riprese, rivissute, ricontestualizzate chiaramente nel nostro contesto per dare luce a quel